Con Sofia di Redacta per presentare il progetto Redacta. Ben trovata. Te Ciao, buongiorno. ne parli? Redacta è una realtà che nasce nel 2019 ed è di fatto una sezione di ACTA, che è una più grande associazione, significa Associazione Consulenti Terziario Avanzato, quindi riunisce i freelance che lavorano nel mondo appunto del terziario avanzato. All'interno di ACTA ci si è ritrovati un po' di persone con la stessa provenienza, insomma, che lavoravano nello stesso ambito, ovvero quello dell'editoria libraria, e quindi nel 2019 si decide di creare Redacta, che di fatto diventa poi una sorta di sindacato dei freelance dell'editoria. Lo scopo è quello innanzitutto di rompere un po' l'isolamento perché siamo tutti lavoratori e lavoratrici freelance, per cui ci ritroviamo spesso a lavorare nella nostra casa, nel nostro co-working o comunque insomma tendenzialmente soli, e quindi c'è poco confronto, c'è necessità di condividere, c'è necessità di fare rete, e quindi Redacta cerca di risolvere questo problema con le riunioni. Riunioni che sono organizzate in varie città d'Italia, principalmente le più grosse, quelle che tra l'altro catalizzano ovviamente gran parte del lavoro delle case editrici, quindi Milano, Torino, Bologna, Roma, qualcosa a Napoli. Punto iniziale è proprio la riunione, quindi trovarsi, parlare, condividere i dolori innanzitutto e lavorare insieme per delle soluzioni, insomma cercare insieme dei modi per tutelarci da soli, ecco, da sole. Poi Redacta propone anche degli sportelli di consulenza. È capitato che persone ci scrivessero via mail per avere appunto delle consulenze, dei pareri su cose che gli erano capitate a livello ovviamente lavorativo, e quindi c'è anche questo aspetto. E poi ovviamente, come appunto accennavo, la cosa più importante, cioè fare un lavoro di tutela del lavoro, principalmente dal punto di vista economico, perché uno dei problemi maggiori è la scarsa retribuzione che ci viene riconosciuta a fronte di tante tante ore lavorate, spesso di un'alta formazione, quindi persone che hanno fatto lauree specialistiche, spessissimo master o addirittura dottorati, e poi si ritrovano a lavorare per due spicci, come si potrebbe dire, perché le tariffe sono davvero basse, perché la tendenza delle case editrici, grandi, piccole, medie, è quella di comprimere il costo del lavoro, perché è il modo più facile per alzare i guadagni, e quindi Redacta cerca di definire quali potrebbero essere dei compensi dignitosi. Questa è una delle nostre principali attività che abbiamo fatto. E il risultato è stato interessante, nel senso che, faccio una piccola parentesi, innanzitutto la necessità è stata quella di mappare un po' il settore, quindi attraverso dei sondaggi, un primo sondaggio fatto anni fa e poi il secondo sondaggio che compie un anno adesso, quindi maggio 2024, abbiamo lanciato il nostro secondo sondaggio per mappare un po' il panorama dei lavoratori e delle lavoratrici e capire chi siamo, quanto guadagniamo, che tipo di provenienza geografica abbiamo, insomma, tutta una serie di elementi che sono emersi poi da questo sondaggio, interessanti per capire un po' la realtà. Soprattutto il dato sul reddito mediano annuo ci ha fatto riflettere, e poi appunto da lì si è partiti col discorso sui compensi dignitosi. Quindi è emerso dal sondaggio di maggio 2024 che il reddito mediano annuo netto di una persona che lavora in editoria, teniamo conto che il sondaggio è stato somministrato a persone freelance e anche a dipendenti e anche a microimprese, quindi c'è dentro tutto. Il reddito mediano annuo netto è di 17.660 euro, che vivendo in una grande città come Milano, con costi molto alti e appunto a fronte di tante tante ore lavorate, perché dai dati è emerso anche che molte persone si ritrovano a lavorare di sera, nel weekend, spesso in urgenza. Diciamo che è un dato, questi 17.000 rotti euro, è un dato un po' sconfortante, ecco. E quindi la risposta di Redacta è stata principalmente la guida ai compensi dignitosi, cioè abbiamo pensato di preparare proprio uno strumento che potesse essere utilizzato in maniera concreta per definire innanzitutto quali sono le prestazioni, cioè proprio descrivere che cosa ci viene chiesto, perché tante volte lo sfruttamento e l'essere sottopagate passa anche da una definizione fumosa di ciò che ci viene chiesto. Fammi una lettura, ma che tipo di lettura, ma in che senso, ma che testo è? Cioè, tutto viene un po' lasciato volenti o non volenti, però comunque il risultato è quello che poi alla fine si lavora per un prezzo troppo basso. E quindi, innanzitutto, definizione delle prestazioni. Per il lavoro per ora relazionale grafico, quindi la guida ai compensi dignitosi di Redacta si focalizza sul lavoro di redazione e sul lavoro grafico, e definirne i relativi compensi dignitosi. Come è stata fatta questa cosa? C'è stato tutto un lunghissimo lavoro, durato 2 anni, di incontri, di riunioni, anche con persone dipendenti, per definire quali sono queste tariffe e come sono state definite attraverso una definizione dei compensi delle persone dipendenti, quindi basati sul contratto nazionale grafici editori, che è quello di riferimento per chi lavora nel settore, partendo dai loro compensi orari, abbiamo cercato di capire quanto tempo si impiegava a fare una data prestazione e quindi quanto doveva essere pagato quella prestazione allora, e di conseguenza da lì è stata estrapolata la tariffa a Cottimo, perché noi lavoriamo tendenzialmente a Cottimo, cioè c'è un'unità di misura editoriale che è la cartella, ovvero una pagina di 2000 battute, e noi prendiamo un tot a cartella a seconda del lavoro che facciamo. Quindi questa guida e il lavoro di redatta di questi anni serve a aiutare appunto le persone a chiedere tariffe migliori, a contrattare individualmente, perché al momento la contrattazione individuale è l'unico strumento che abbiamo per ottenere migliori condizioni, perché una contrattazione collettiva ancora non c'è, perché non abbiamo un contratto nazionale, ovviamente essendo freelance, e però serve molto anche il lavoro fatto con la guida per creare consapevolezza, cioè al di là di ottenere migliori compensi, bisogna prima di tutto capire che siamo sottopagati. Quindi anche per chi entra nel settore da zero, per gli studenti che entrano a lavorare in editoria, dopo gli studi arrivano nel mondo del lavoro editoriale e non hanno idea magari di quanto chiedere. Ecco, con questa guida già si può avere dei riferimenti. Chiaramente arrivare ai compensi proposti dalla guida può essere complesso, cioè tante volte io mi ritrovo che mi propongono una cifra, faccio il calcolo con la guida e viene fuori il triplo. Quindi tante volte chiedere il triplo può essere difficile, contrattare in maniera individuale è difficile, dipende anche da che committente hai davanti, se è il tuo unico committente, se ti puoi compromettere fino a un certo punto nelle pretese di cose giuste e dignitose, appunto, però sempre difficile. Quindi la guida è per avere un riferimento, poi si cerca di arrivarci il più possibile appunto contrattando e cercando di chiedere ciò che è giusto per il lavoro. Poi c'è anche tutto un grande tema sul welfare, molto ampio, perché ma anche sul tema welfare le persone freelance dell'editoria e anche non dell'editoria hanno delle difficoltà a ottenere tutele, o meglio esistono ma sono complicate da richiedere, sono molto macchinose, vanno tra l'altro in base al reddito, cioè per esempio se dovessi richiedere della malattia lo posso fare, ma la malattia mi viene riconosciuta, mi viene retribuita in base a quanto fatturato l'anno precedente, quindi anche questo non è una cosa equa secondo noi. Quindi diciamo che Redact vorrebbe porsi un po' come punto di riferimento per chi lavora da freelance nell'editoria libraria e appunto cerca di portare consapevolezza, fare rete, insomma, e aiutare, dare un punto di riferimento alle persone che hanno bisogno di punti di riferimento. Ma noi che siamo dentro l'associazione per prime ci aiutiamo a vicenda, ci facciamo consulenze a vicenda quando abbiamo bisogno di supporto reciproco. La guida poi si presenta anche in forma web volendo, cioè esiste una versione in web app che si chiama Redalgoritmo ed è quindi una sorta di calcolatore di preventivi, quindi è molto comodo perché si possono inserire direttamente su questa web app le cartelle, il tipo di lavoro richiesto e esce fuori il compenso che sarebbe quello giusto e dignitoso. Poi il lavoro di redactor non si ferma qui, questa guida è solo l'inizio, l'obiettivo è quello di arrivare un domani appunto alla contrattazione collettiva, passando poi anche per ampliamenti di questa guida ai compensi dignitosi, quindi l'idea è quella nei prossimi mesi e anni di lavorare a una guida analoga ma per i compensi della scolastica, un settore un po' più specifico dell'editoria di libri, quindi libri di testo per le scuole, una guida o un ampliamento della guida che riguarda il lavoro di traduzione, anche quello purtroppo spesso e volentieri sottopagato, e poi si continua a creare consapevolezza e condivisione cercando di fare il più possibile incontri, partecipando a festival, scrivendo articoli, insomma tutto quello che si può. E a tal proposito, per chi è a Milano, il 16 aprile a Piano Terra ci sarà un incontro con i librai e le libraie che hanno scioperato della Feltrinelli e anche altri librai che volessero partecipare, e con i bibliotecari e le bibliotecarie di Milano, e si parla proprio di lotte condivise, perché la lotta non è solo la mia, ma è sempre anche quella di tutti e tutte. Esiste un sito web che si chiama ACTA in Rete, il sito è di ACTA, all'interno c'è anche la parte di Redacta, e poi abbiamo una pagina Instagram e una newsletter. Il sindacato Redacta, un saluto e un ringraziamento a Sofia, appunto del sindacato Redacta. Alla prossima! Ciao, grazie a tutte e tutti. Thank you. Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 euro al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info. Questa è tutta Scena Teatro su Radio Onda Rossa. Il martedì alle ore 14. Trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali. I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Lo spettacolo Caligola Night Live di e con Claudio Gioè. Assistente alla regia Laura Giacobbe. Quale guida e faro luminoso nell'impellente e vitale missione di condurre il nostro amatissimo impero, sopra ogni cosa ringrazio. Che gli dèi, così benignamente prodighi di fiducia, non mi abbandonino mai e che anzi possano sempre arrecarmi il giusto consiglio. Si apre per noi una nuova era di prosperità ed ottimismo verso i giorni futuri. Qualcuno potrebbe essere giustamente indotto a credere che la mia giovane età possa essere portatrice di irresponsabilità e di non congrua dedizione all'alta missione assegnata. Ma io dico a questi che il giovenil fervore e la tenacia con cui un animo non corrotto ottempera agli alti ideali cui è votato per natura, la giustizia, la correttezza politica, la fraterna forza contro i nemici della patria e delle istituzioni, sono bastevoli a credere che il nostro sarà certamente un governo che sarà ricordato a lungo nei secoli. E forse l'unico estraneo alle furbizie di una gestione del potere, adulto sì, ma più corrotto e sopra ogni cosa falso e ottuso. Con l'augurio insieme la certezza che gli dèi, alla luce di una benigna stella, ci osservano, miei carissimi consoli e senatori, vi reco il mio più cordiale saluto. È un doveroso saluto, porgo anche al mio gran predecessore, Tiberio, che ha da poco valicato le serene porte della Verna. Che possa... No, scusate. Che possa... Fottersi! No, no, Tiberio, no! Che possa... Fottersi, ho detto! Di tutto cuore... E possa essere... eternamente inculato dai vitrosi cazzi dell'inferno! I quali... gli arrecheranno finalmente quel piacere che egli ha sempre ricercato in quel troiaio che era la sua casa a capo. Casa che tra l'altro m'ha visto quale fervido frequentatore delle più turbi orge, dai che lo sai, delle quali non avevo mai sentito letto. Bene, credo che ci siamo detti tutto. Non resta che augurarvi benvenuti nell'era di Caligola. creativa. Ogni gesto si disperde nel buio di un singhiozzo, non è mai stata mia la mia storia. È silenzio, è nebbia, è vuoto e lontananza, è straniamento spietato senza requie, un monotono sussurrare di parole, litania di incertezze, di date, ricordi, senza riscontri certi, senza certezze riscontrate, senza critica post mortem, fuori, fuori, dagli occhi e dal cuore, impietosamente fuori! Non è mio il mio amore. Non conosco la meravigliosa idiozia di un semplice assenza, la divina potenza dell'ignoranza. La mia vita è tutta nelle mie mani. E anch'essa il mio totale potere. Potere terrifico e impietoso. La ragion di Stato non mi lascia la solitudine di un'azione istintiva. Tremendo il rumore di tutte le mie voci, insopportabile il frusciare di individualità striscianti, di osservazioni oggettive, di opinioni, trasporti, dubbi soggettivi che mi viaggiano in testa. Odioso il frastuono di una contraddizione in termine, di osservazione che sia rivolta all'interno, che sia collasso dell'oggettiva volontà di esistere. Mi viene voglia di finirla. No, dico, mi viene voglia di gridarla. È la mia incertezza. Tutti devono capire. Qualcuno si nasconde sotto il mio letto. Ha voce simile alla mia. Ha occhi bagnati di lacrime come i miei. E in tale stato, in tale simile condizione, pure mi terrorizza. Mi offusca i pensieri. Inibisce il tentativo mai esperito di dare un'occhiatina sotto al materasso. Tutti devono capire. Ciò che io provo ogni notte, disteso insonne sul mio letto, gli occhi fissi nel buio sopra, le orecchie tese agli affanni, sotto. Già che non è da tutti avere un interlocutore imperiale, io ce l'ho in me. Ho un astuto e scaltro imperatoruncolo, spietatuccio talvolta, pizzoso, capriccioso, narcisuccio, ciavigliere, petulante, insolente, amorevolissimo, puer terrible, invidiatissimo sovrano del monte delle norme, istitutore di regole impossibili, di assurdità in atto, di azioni sacrileghe e sciocche, incomprensibile e più, beh, incompreso anche a se stesso, che ora si descrive con sì tanta contezza, non è da tutti vivere in sé, fuori da sé e sopra di sé. E già questa coscienza amara, questa, come chiamarla? Inettitudine a vivere, questa vita che non ho, la paraderei volentieri con quella del calzolaio che mi fece le scarpe. Non questo. Le calici di mio padre. Troppo grandi per il vero. Troppo grandi. Ma sì, lo sapevo io, lo sapevano i soldati, lo sapevano tutti, insomma, un gioco, una burla. Ma che burlo, padre mio! Le scarpe di mio padre. Le scarpe con le quali anch'io comandavo un impero di formiche e formichette, di ragni e ragnetti. Un imperatore entomologo, con pieni poteri di vita e di morte sulle inermi bestiuzze. Un gioco, una burla, innocentissimo approccio al mio stato futuro quando il vero, il grande Caio Augusto Germanico Caligola avrebbe ottenuto vero potere sulla vera vita e sulla vera morte. Ma il fatto strano è che quelle scarpe, quelle di mio padre, continuano ad andarmi ancora larghe. Ancora, capito? Ti ricordi? Caligola? Caligola! Si divertivano loro i soldati a schernire le mie prime prove d'emulazione. Ma cosa ne sanno loro del peso che oggi sopporto e che non posso più dissimulare? Quel calzo mio mi ha rovinato l'esistenza! Mi ha condannato alla coscienza ad essere denigrato per il mio operato. Ha fatto sì che io, capite, fin da bambino, imparassi la burla dagli occhi di quei soldati. Io, attore involontario di una commedia che m'ero preparato, di cui m'ero scritto il copione e che interpretavo con tanto zelo. Commedia di cui imparavo passo passo il senso profondo e sommerso. Commedia che mi sarei trascinato per sempre in una condanna cosciente nell'impossibilità di sperdermi in un ruolo senza sentire addosso sempre presenti gli occhi divertiti di qualcuno che ripete ma che burla, che spassetto, sta giocando il ragazzetto. Quel calzolaio. Beh, posso dire oggi con esatta coincidenza di figure e senso, di sintassi e metafora, che egli, sì, egli, mi ha per l'appunto e per tutta la vita fatto le scarpe. Eccoci, Risia. Ecco, adesso è notte. Vedo il buio entrare dentro i miei occhi. Maledetto, io non voglio. Resta fuori e non scocciare. Che nessuno ti ha invitato ed è inutile bussare. Ma a pensarci proprio bene, un rimedio ci sarebbe per non far entrare più questo buio nella mente. Basterebbe allora chiudere questi occhi poco esperti. Ma perché mi ostino allora a tenerli ancora aperti? Silenzio che mi fascia le orecchie di un profondo vuoto. Il vuoto che sono, il vuoto che sono, il vuoto che sono, mi ripeto sempre le stesse parole. Riecheggio impertinenti le stesse querule domande. Stridono i battenti! Qualche sentinella distratta. Dimenticano tutto quanto. Se non ci fossi qui io. Già. Se non ci fossi. Ma ci sono. Direi anche nonostante me, mi devo ricordare di impiccare qualcuno. Domani. Ho fatto alzare tutti gli specchi. L'immagine di ciò che sono diventato mi deprime alquanto. C'ho un coiffer che non vale un cazzo. Passi, senza foto. Passi, silenzioso. Qualche goccia! Che scodinzola lieta nella grondaia qui fuori. Felice, lei. Spensierata, la goccia. Scivola sempre più a fondo, sempre più giù, in giustissima direzione del dente al baratro. Innocentissima disillusione di caduta, come di scivolo puerile. Mi sono cantato i momenti. Ogni caduta è salita alla ragione. Mostro, Caligola, mostro! Per avere troppo amato! Mostro anche per essere così disumanamente cresciuto. Eh no, la misura non è il mio corpo. No, niente misura. Scivola, dolcissima imbecille! Fa che possa almeno non sentire la tua fine. Una vita in caduta, una vita in delirio fa sempre troppo stridore, come di lamiera su strisce di cristallo e acciaio e pietre scintille. Che rumore insopportabile! I miei passi, ecco, insopportabili. Sul marmo di Carrara, sul granito lucidato, sull'alabastro arrugginito, striscianti i passi! Che passi! Striscianti i pensieri! Io disgraziato, taci nella tua mente, ma che pena, che martir, qui mi sento trasalir, non senti? Non senti? Il languido rincasar di un amator alla flebile luce della luna, non senti? fresco zefilar fra i crini suoi, ancora un po' imperlati di sudore, ed il pulsar scomposto ancor in tempia sua. Un attimo prima, trepidando di linfa vital, si inondava nello scomposto e tumultuoso getto, e non sento più anche defluvi di carne impaziente insommossa, d'anarchiche decisioni di unisinne. Non senti tu il profumo acre, spudorato e ostentato di primitivi affanni, di pornografiche morti a portatore? Mi devo ricordare di invitarlo domani. E lei è là, la donna di quell'uomo, dico, tutta tremante di piacere rubato, col marito da qualche parte, magari in un bordello di mia proprietà. E lei è là, distesa sul suo bel talamozzo, nell'abbandono dei sensi, un ultimo sguardo a lui che si cava dalla finestra, un ultimo distratto palpitare di periglio appena appena scampato, la coscienza che tarda ad arrivare, grazie a Dio, un senso di spossatezza, liberatrice, flebile, calda in tutto il corpo, carezzandosi i capelli, strizzando gli occhi di tanto in tanto, adorandosi le dita, riempendosi di un ultimo intensissimo ricordo di cui presente più in sostanza olfattiva che in spirito e memento. E così, piena ancor di quel di lui, s'arrende alla viltà d'una rivalsa ancor della vita in sua morte. E, baluardo d'impetuosa età, di sensualità incosciente, s'assopisce sereno, dimentica di sé. Ah, l'amore. Che stupido dolore. Che strazio l'estate in Campidoglio. La città deserta, le campagne crepitanti, ovunque sto profumo de morte, un'esplosione di flori e flughi, le fontane che imperturbabili e gelide scrofitano per alleviare le arsure di un tardivo randagio o rinfrescare la nuca di una puttana zelante. No, l'amore sceglie stagioni meno sciante. Ogni notte per me è una vita a parte, o meglio appartata, ecco, lontano dagli echi striduli di personalità accorte, lontano dalla noia di essere scopertamente. Annottare e un po' morire. E i giorni senza senso. E sì che non li ho ordinati io questi flagellucci impietosi. Queste sono le vere piaghe della nostra società. E che non vengano a rompermi i coglioni con istituzioni giuste ed equilibrate, con garantismi scialbi che accontentino tutti i porci pretoriani, i maledetti patrizi e il popolaccio rumoroso. Cercare altrove i motivi del malcontento generalizzato mi sembra da idioti. Vite troppo brevi, gioventù fuggevoli e cuori con scadenza in arce. Gli amori, gli amori, gli amori! Tutto diverso se amore e odio nella loro devastante potenza ci schiantassero, giorno dopo giorno, incessantemente, non più distratti da noiose occupazioni. Il lavoro abolito! Troppo stancante. Danneggerebbe le basi su cui si fonda il nostro Stato. Basi erettili e sempre pronte, sia al mattino ma anche alla sera. E che non vengano più depressioni, stress ed emicrania a distogliere il mio popolo dall'unica vera piacevole occupazione. E allora sì che non si sentirebbe più parlare di guerre e devastazioni, di questo o quel vichingo o gallo o altro animalazzo conquistatore. Allora sì che non si sentirebbero più le noiosissime disquisizioni sui nostri quotidiani, su chi ha ragione e chi ha torto, su questo o quella legge. L'amore e l'odio a sanare l'indecorosa fine del nostro undì virilissimo Stato. Oh, amore obbligatorio e sincero, senza scherzi, e duro rigore e pene per chi non ascolta il proprio cuore. Pugno di ferro anche verso chi, in stupide lucubrazioni, lascia scorrere il proprio tempo terreno senza essersi mai innamorato. Pene corporali, bravo, è proprio il caso di dirlo. Per le vergini integraliste, per qualsiasi motivo, credo o professione, che un po' di sano piacere non ha mai fatto male a nessuno. E se togliamo, è vero, qualche strana fantasia, ecco che ultimamente mi gironzola in testa. Ma comunque, passare gli anni e le soavi giornate scandite dal nuovissimo calendario che farei redigere a nuovo, con feste falliche e giornate di orge nazionali al suono del nostro novello e sensualissimo inno. Scuole chiuse, magari per sempre, e tutti obbligatoriamente e indistintamente giù ad amarsi in piazza, con la gioia ritrovata di un sentimento nazionale patriottico. Ma chissà, quel più naif. Certo, poi si potrebbe anche cominciare a stimolare, mi sembra una parola data, gli architetti e gli ingegneri nella costruzione di luoghi d'aggregazione regolamentari, no? E adatti ad accogliere, come dire, a misura d'uomo nonché di donna, i nuovi bisogni, le nuove necessità, per così dire, del mio popolo urgente. E così, dopo il letto ad una piazza, a una piazza e mezzo, a due piazze, un'enorme, libidinosa, invitante piazzoletto, un maestoso materasso ricoperto di fiori profumati d'oriente, di cuscini d'oro, di frutta squisita, di vino a fiumi, di tutto ciò, insomma, che la natura porcellona mette a disposizione per aiutare, ecco, diciamo, stuzzicare un appetito altro, con l'ambiguo scopo di restare insaziabili anziché farci satolli. E sotto il sereno sguardo dei lari, tutti giù in un'orgia gioiosa, a cielo aperto, feroce e smodata, un levarsi di umori dalle gonne strappate delle madame, dalle camicie sfilate nella smania ad onorare le feste, un fremere continuo di genti e urla selvagge a cosce aperte, morbide e squassate, sotto i colpi del popolo che avanza con il brando alto levato, affamato oltre che di pane, di piacere rabbioso. E allora, altro che rivoluzione, altro che Robespierre a chiedere la baguette, ma è la baguette che era lui alla bella signora il pane negato per tanti anni. E la signora a godere di questi bagni d'atmosfera nei bassi fondi, altro che bassi fondi, paesi bassi, e senza gli zoccoli a punta levata olandese, ma le zoccole ritrovate, e le serve coi padroni mai così asserviti alle arti magiche del piacere, la revoluzione isì fra le morbide curve della brava cameriera, divenuta sacerdotessa, prelata, santa, venerata ed onorata, in ginocchio ai suoi piedi, schiere di nobili pensatori annoiati che assaporano la saggezza popolare di fra le sue scomposte mutande. Tutti, proprio tutti, grandi e piccini, incessantemente avvinti in un gigantesco complesso, senza distinzione di colore, razzo, religione, ma carne, e ancora carne, brulicante sulla pubblica piazza, eretta da Caligola, per meglio tener sott'occhio con un voyeurismo senza precedenti, i movimenti, i sobbalzi, le impennate, l'incedere insomma instancabile e monotono della nostra fottutissima storia. E invece, eccoci qua. Senza amore, senza gioia. Nei loro occhi tremanti, nei loro occhi imploranti, solo il terrore che li attanaglia in una morsa letale riesco a leggere. Il panico del non senso, la paralisi dell'imprevedibile, l'angoscia del colpo che non puoi prevedere. Sanno bene che un mio sguardo, lo sguardo del potere, può essere la più grossa fortuna che possa capitare a me. Eppure non gioisco, perché gli ho insegnato altresì che lo stesso identico sguardo può costare loro la vita. Per bene miseruccio, che è tornato ad essere, grazie a me, il più prezioso. Il più prezioso. Non riescono a credere che io abbia lo stesso tono di voce quando nomino qualcuno senatore o quando invece lo faccio sgozzare. È una pratica molto difficile da attuare, me ne rendo conto, è quanto mai spettacolare. Ma allo stupore spero prima o poi subentri l'ammirazione, che cazzo. Non c'è il minimo rispetto per i virtuosismi in questo porco stato. La minima considerazione. Ma poi di che mai si sto visto? Ma di che mai avranno paura? È un tono che viene fuori naturale! Naturalissimo, anzi. Io sono un dio delle serve, un demone della natura, seguo alla lettera indicazioni di regia superiori. Basta comprenderle e interpretarle. È il mio smodato spirito di emulazione verso il mio regista che mi porta a fare felicissimi risultati. Io amo il mio regista, madre natura, geniale, assolutamente geniale. Ebbene sì, un divertentissimo rovello per psicanalisti rampanti, un complesso edipico naturalis, perché io me la fotto, madre natura. E lei mi dice tutto quanto. Dice tutto al suo figlioletto prediletto. Prediletto, postdiletto, usoletto, condiletto, reciproco, incestuoso, oh figlio naturale, eh? Non scherziamo. Lei mi ha insegnato l'indifferenza, sapete? Quel tono tanto temuto, quel senso perduto di pietà. Lei fa nascere e lei fa morire. Così. Come una prezza a stormire le fronti, come un ruscello a corbogliar strozzato. Geniale, assolutamente geniale. Ma se così non fosse, scusate, ma pensate a quale pena madre natura dovrebbe provare alla morte stagionale d'ogni foglia, al crepitare d'ogni rigoglioso fiore sotto la canicola, al marcire d'ogni frutto schiantato sul terreno. E così dovrebbe pur fare per le sue creature deambulanti di cui l'uomo fa pur parte. Ma via, non diciamo che sì. Purtroppo gli uomini non ascoltano la bambina e vogliono dimenticare, vogliono rinnegare le antiche leggi, le buone, sane, care, impietose leggi di natura, e preferiscono seguire leggi assurde, improbabili nel migliore dei casi, leggi che invocano alla pietà, alla solidarietà, all'onore. Ma per fortuna, oggi ci sono piante. Io a dare una rinfrescatina alla stolta memoria con un po' di sana instabilità. Già, questa, come chiamarla? Precarietà? Da me imposta. È naturale. E che soltanto io faccio riemergere. Che soltanto io pongo a condizio sine qua non, che soltanto io, primo nella storia, ho messo alla base del più solito degli stati, che ho insinuato neanche tanto discretamente all'interno delle più granitiche istituzioni, facendo così tremare tutta Roma, tutto l'impero e Atlante stesso che regge il mondo. Questa precarietà, dicevo, sia da voi benedetta e vi induca ad amare smodatamente la vostra vita, ad ascoltare i vostri bisogni, le vostre voglie primitive, senza chiedere altro, smascherando le menzogne che vi rendono folli, seguaci di stupide regole e condotte morali e ideali a cottimo. Questi sono i veri fardelli che questa immonda civiltà si trascina dietro con una determinazione che stenta a credere umana. Se esiste un Dio, è l'assurdo Dio della volontà cieca! Se esiste un Dio siffatto, beh, ha parecchi proseliti alle spalle! Se esiste un Dio, io l'ho perduto da tempo! Io che mi vedo esistere e perciò non vivo più! Se esiste un Dio e sa di esistere, allora è già morto e sepolto. Riuscirò mai a dire tali cose a persona viva? Chissà se mai riuscirò. Chissà se mai riuscirò a trovarne qualcuna in giro. Ricolme di vita, di gioia soffice, discreta e impietosa, di pomeriggi ciarlieri dolcemente noiosi, di passeggiate rilente a fil di vento nelle grigie scogliere, capri e scogli, e ore tarde e pioggia fitta, leggera, immerso in esistenze umide, circondato dal mare mugghiante di smani adolescenti, aspettare un'ora che tarda, un'ora senza senso se non per il ventre caldo ed emozionato, in cerca di uno sguardo di qualcuno che sa di essere una deriva, una necessaria ancora, una possibilità di fuga, un'isola. Fantasie troppo reali, troppo incessanti per chi come me era attratto dalla bellezza della mancanza, dell'abbandono, attratto da ciò che nascosto in mille anfratti non si rivela, che anzi si nega, ossessionato dal melò dell'impossibilità della mia purezza in un mondo di impuri, frustrato dalla volgarità della merce a basso costo nel grande magazzino del piacere, le feste dell'imperatore Tiberio, dei patrizi pavosi, spossati e satolli, amare con l'abbrivio di una buona bevuta, morire in bieche occupazioni, senza possibilità di replica, senza la crudele catorbia di un bacio negato. Incosciente. E volete che io, una volta perduto tutto questo, me ne stia in disparte? Che me ne stia seduto sul mio lucido trono a scolorire? Folli! Folli! Voi che così in silenzio mi appellate con i vostri sguardi pieni di disprezzo, voi vorreste che io stia zitto? Che lasci che la storia ottusa mi ricopra di ridicola comprensione? Che soffochi le mie grida con la mano pesante di un vecchio saggio rispettabile, ve lo ripeto, folli! Io farò sgambettare questo vecchio serafico in sfrenate danze! Lo farò ubriacare! Lo drogherò con tutte le droghe che conosco! Lo costringerò al ridicolo, alla scompostezza della smornia, al cacchericcio molesto dei tabloids! Io, Caligola! Mi farò sadico padrone della storia, di questa troia imbellettata! With your hair down upon caldo il tuo dolcissimo corpo anche solo per una frazione distante. Tutto il mio amore trova il giusto destino. Dolci, fredde labbra. Quanto le baciai. Quanto le baciai. Dopo mi lasciasti il tuo corpo, Drusilla. E discreto e puro come il tuo animo, io mi trascinai per 3 giorni e 3 notti nelle foreste, nei boschi, fino a schiantare anch'io, ma non mi riuscì. Non fui capace di chiudere gli occhi e cancellare così anche il tuo ricordo. Io non mi uccisi, Drusilla, ma continuai a baciarti. Le tue mani pesanti, sempre più fredde, sempre di più. Non mi cercavano, non scivolavano leggere verso luoghi di me non conosciuti. Le gambe, unti frementi, avvinghiate oramai soltanto all'immobile eterno. Io ti ho cercata, Drusilla, per 3 notti. L'ho cercata dentro il tuo corpo, nel folle intendimento di trovare il tuo tepore. Il tuo fuoco stupito e gioioso, le tue parole proibite. Drusilla, dimmi, tu che possiedi tutto il mio amore, dimmi, a che vale un essere senza più un goccio di sangue nelle vene? Che cosa vive a fare un uomo il cui cuore è sepolto sotto la dura roccia? Tale è Caligola, condannato a vivere in sonno nell'oscurità e ad estirpare tutti i suoi più cari ricordi prima di lasciare questa cazzo di vita. Ma se scrivessi un Carmen? Drusilla, odea, amatissima suora, che pena guardarmi, che pena. Oggi m'è data la crudele vista che misero mi scopre ogni giorno di più, che arido e indifeso mi toglie la gioia un seguitar distratto di ricordi. Ammenciate visioni, appassite glorie di dominio di sé, del manto eterno d'oggi di rude credenze, non resta che qualche sparuto sciavolo, che irriverente la polvere copre, che la luce crudel del sole impietosa dissecca sulle straducce aduste di mie realtà svelate o su riscialbate Drusilla. Drusilla, amore, ricerco la serena prescrizione. Se lascia stare. La lirica non è più il mio forte. No, è ampolloso, demodè, assolutamente morto. Morto come il mio cuore. Che fai, cominci? No, per carità, risparmiaci. Sii pietoso per una volta, impietosissimo sovrano. Donna allo Clio le tue imperiali lagne. E pensa, alla smania che ti prende, arido Romeo. Quando un seno fa capolino dalle leggiadre vesti delle tue rarissime serve. Che dall'Oriente scegliesti e da ogni dove, senza badare a qualità altre che non fossero pienezza e abbondanza di frutti naturali congenti, destrezza e perizia che non fossero culinarie, ma scusate la facezia, che fossero indistintamente culinarie. Sovrano dello sconforto, di come lenisci la pena, di come ristoro trovano le tue regali bassezze. Non lo si. Di fra le tue bagnate lenzuola. Di pianto, si intende, di pianto. Non dici come muori in diuturni affanni? E chi nell'antro dei diletti ti imprigiona tra cosce sempre nuove? Chi ti fruga dentro a scovare i tuoi segreti dolori? Compenetrato e compresso da chiunque prezzolato cerchi i tuoi favori. Denigrato e offeso nelle tue segrete ansie, Drusilla è morta e brucia all'inferno. Drusilla non è più la tua divina idiozia per mare, è ottusa, cieca, viva, ti possiede. Dannata e folle ti mantiene in vita! We're in Spain for reasons I don't explain. I remain enjoying a brew. stasera è l'imperatore Caligola. Buonasera. Allora, come vive questi attimi di fremente attività politica? Ma a cosa si riferisce, scusa? Beh, mi riferisco ovviamente alle recenti rivendicazioni senatoriali. Ah, beh, intanto ciò che è ovvio per lei non è mica detto che sia ovvio per me. Anzi, le rivelerò un segreto. Io, in quanto io, ignoro tutto ciò che è ovvio. Ho capito, un gioco di parole per dire che mantiene un atteggiamento di superiorità e distacco rispetto alla segreta congiura contro di lei? Ha qualche asso nella manica? No, guardi, ci si considera superiori qualora si paragonino così due aspetti di una qualche realtà. A me credo manchi un termine di paragone, ovvero la storia, che mi sta attorno agitandosi, complottando. Di conseguenza nessun gioco di parole. Considero la storia ovvia. Io, come le ho detto, ignoro l'ovvietà, di conseguenza non la concepisco in quanto pericolo. Ho capito, poniamola in un'altra maniera. Lei crede di poter uscire vivo da questa impasse che ha colpito il suo impero? No, guardi, mio caro, il mio impero, così come lo vede lei, non ha nessuna concretezza, nessun andamento, per così dire. Anzi, posso decisamente affermare che il mio impero non ha dove andare. È sempre rimasto dentro di me, senza uscire allo scoperto. E non è passibile di impasse, come dice lei, o di nessun altro intoppo che non sia di ordine morale. Chiaro? Si sente, ho capito soltanto che non vuole rispondere. Passiamo oltre. Come crede di poter giustificare le innumerevoli follie che hanno fino ad oggi contraddistinto il suo governo? Follie cosa intende? Andiamo, Caligola, lei ha appena eletto senatore il suo cavallo. Ma quella è stata una scelta ponderata. Io le assicuro che il mio cavallo è molto più degno di tanti suoi colleghi illustri senatori. E forse a tutt'oggi l'unico di cui mi possa fidare ciecamente. Beh, ho capito, allora come la mettiamo con le campagne belliche contro l'Inghilterra? Rivelatesi poi una burla. No, guardi, le cose sono andate così. Intanto, molti miei predecessori si sono serviti di guerre per far distrarre i militari che volevano pretendere un po' troppo. Sai, io ne ho viste di cose simili anche con mio padre. Loro stanno per insorgere, questi comandanti generali, insomma, chi per loro, si inventano queste guerre patriottiche prive di senso. Una cosa, io nel mio piccolo ho fatto lo stesso, ma in maniera diversa. Ho portato tutto l'esercito in Normandia. Li ho fatti viaggiare tanto. Li ho fatti schierare tutti, flotta compresa, di fronte all'Inghilterra. E tutti pensavano, beh, Caligola finalmente conquisterà l'Inghilterra. Ma, ecco, a dire il vero, mentre mi trovavo in Normandia, sa, io non c'ero mai stato. E molti miei soldati mi confessarono lo stesso. Che le devo dire? A me è piaciuta veramente tanto. Sì, bella, romantica, malinconica. Io ricordo che me ne stavo tutto il giorno in queste enormi spiagge a raccogliere conchiglie dall'oceano. È stato devastante. Ma lì ho capito. Lì ho capito che la malinconia è un sentimento così distruttivo che nemmeno sento bene. E così mi sono detto, voglio che il mio esercito provi quello che ho provato io in questi giorni. Capisce? Invece della solita battaglia fisica, che poi, voglio dire, lascia un po' il tempo che trova, io volevo che ne provassero una mentale, del cuore, per così dire. E così ho ordinato loro di raccogliere conchiglie tutto il santo giorno. Avrebbe dovuto vederli. Alla fine erano distrutti, ma felici. E niente, poi buoni buoni, ce ne siamo tornati a Roma. Beh, davvero encomiabile da parte sua. Quei soldati staranno ancora ringraziandola per la magnifica esperienza emotiva offerta loro. Già, Caligola, che cosa che le fa più paura? Beh, direi i fantasmi del passato. No, io mi riferisco alla vita reale. Beh, io ho parlato della vita reale. Sì, ma ecco, concretamente, qual è l'esperienza che le provoca maggiori angosce? Ah. Beh, insomma, sarebbe un po' troppo banale dire la morte, per cui dirò la vita. Sì, insomma, tutta questa sofferenza che vedi in giro, questa paura. Beh, paura che certo lei alimenta. Vogliamo fare cenno alle innumerevoli persecuzioni del suo governo? No, ma quelle sono fatte a fin di bene. No, mi scusi, ma mi sfugge il senso di questo azzardato simolo. No, dico che quando si è troppo convinti della propria immortalità, la vita diventa troppo insopportabile. Di tanto in tanto è bene ricordare che prima o poi lei, per esempio, si crede immortale. Beh, niente affatto. Ma vorrei vivere quanto più è possibile. Sì, ma mi dica la verità. Quando sente che qualcuno a lei vicino è morto, dico, le sarà capitato almeno una volta nella vita? Beh, mi permetta la buttata, ma a chi non è capitato sotto il suo governo? Ah, ha ragione. Ecco, allora non sente come di essere superiore a quell'evento? Per il semplice fatto che non è lei il soggetto direttamente interessato. E non sente come un attaccamento morboso alla sua di vita? Come se lei fosse intoccabile. E così, irrazionalmente, si ripete che sì, insomma, si muore. Ma che questo a lei non accadrà mai. E lei è il protagonista assoluto della sua esistenza e dunque, che ne so, come in un film. È impossibile che lei, proprio lei, possa morire. Ma cosa c'entrano i film adesso? Ma scusi, lei ha mai visto un film in cui il protagonista all'inizio muore e a quel punto il film finisce? Così, senza uno svolgimento. A metà, senza senso. Si accendono le luci e via. Tutti a casa. Però sarebbe un progettino cinematografico degno di me. Ho degli amici produttori che potrei proporlo. Ma insomma, Caligola, lei vorrebbe farmi credere che le sue sono stragi educative che se comprese fino in fondo sarebbero addirittura decantate dai filosofi. No, io non faccio filosofia. Io faccio semplicemente quello che voglio. E poi le mie stragi, come le chiama lei, sono, almeno secondo le statistiche, di gran lunga inferiori in numero alle stragi fatte per guerre stupide e prive di senso. Se non per il dio denaro, ecco. Io mi sono sostituita al denaro. La gente oggi muore per me. Insomma, come un dio. Ma lei davvero crede nella divinità? Una volta provata. Voglio dire, una volta provata a capire cosa spinge la gente a credere. Forse lei si riferisce a quando ha fatto sostituire tutte le teste delle divinità dell'impero con teste raffiguranti il suo volto? Sì, proprio a quello. Ma ecco, sebbene sento una certa accusa nella sua domanda, vede, non c'era nulla di sacrilego in quell'azione. Poi sa com'è, quando si è giovani si è preda di un egotismo un po' eccessivo. Un po', dici? Milioni di fedeli si sono trovati dall'oggi al domani a chiedere aiuto allo stesso volto dal quale fuggivano. Oh, via, non la faccia così melodrammatica adesso. Un'effigie è pur sempre un'effigie, una figura, un'ombra. Che quell'ombra fosse la mia non era poi così tremendo. Ecco, poniamola così. È stato un segno di presenzialismo a tutto campo. La politica è sempre presenza. Ecco, a proposito di politica, siamo, possiamo pur dirlo, alla fine del suo impero. Ecco, tra poco i congiurati irromperanno in questa sala e lei, nella migliore delle ipotesi, ecco, verrà pugnalato una trentina. C'è qualcosa che avrebbe voluto fare e non ha fatto, Caligola? Abolire la libertà di stampa? Carina, ma voglio essere franco, no, questa la tagliamo. Certo, se no che libertà sarebbe? Ecco sì, ma ha mai pensato alla morte? Come se l'immagina? Poco elegante. Davvero poco elegante. Come un noiosissimo impegno al quale devo presiedere necessariamente, sebbene non ne veda la necessità, si intende. Beh, io ho come l'impressione che non siano in molti a pensarla come lei riguardo alla necessità della sua morte, voglio dire. Sì, mi rendo conto che non tutti mi capiscono. Sono un genio incompreso. Beh, ho sentito dire che a volte la genialità rasenta la follia. Lei che ne pensa? Dico che non accetto questa sua simpatica provocazione. Un'ultima domanda prima di salutarla. Ci è giunta voce che l'ultimo banchetto che ha tenuto è costato più di 16 milioni di sesterzi. Ecco, più o meno, mi corregga se sbaglio, l'entrata tributaria di 3 province dell'impero. ci dice che cosa avete mangiato. Tanta roba, mi creda, tanta roba. Bene, grazie tante, imperatore Caligola, e arrivederla, spero. Non si preoccupi, sono ancora vivo. Agitatori di attivisti da caserma, l'azione purgante della nostra patria terra, della nostra patria volontà di riscatto. Chi ha mai parlato di riscatto? Sono mica un sequestratore della nonna. Le mie incondizionate condizioni, la libertà. La libertà. Purtroppo sempre liberi a danno di qualcun altro. Io, per esempio, sono libero da me stesso, a discapito di me. Non riescono a capire l'importanza della prigionia, della privazione. Privarsi è crescere a dismisura, oltre i limiti umani di una decente libertà. Thank you. Lo spettacolo Caligola Night Live di e con Claudio Gioè. Assistente alla regia Laura Giacobbe. Anywhere Out of the World di Antonio Tabucchi, lettura di Ermanno Nastri. Come vanno le cose? E cosa le guida? Un niente. A volte può cominciare con un niente, una frase perduta in questo vasto mondo pieno di frasi e di oggetti e di volti, in una grande città come questa, con le sue piazze e la metropolitana, e la gente che cammina frettolosa uscendo dagli impieghi, i tram, le automobili, i giardini, e poi il fiume placido, sul quale scivolano al tramonto i battelli verso la foce, là dove la città si allarga in un suburbio basso e bianco, sbilenco, con grandi pozze vuote fra le case come occhiaie scure, e una vegetazione rada, e i piccoli caffè sporchi, ristorantini dove si può mangiare in piedi guardando le luci della costa, oppure seduti ai tavolini di ferro rosso, un po' rugginosi, che fanno rumore sul marciapiede, e camerieri con la faccia stanca e la casacca bianca con alcune macchie. A volte mi aggiro da quelle parti la sera, prendo un tram lentissimo che scende tutta l'avenida e le stradette della città bassa, e poi infila il lungo fiume e sembra ingaggiare una vecchia corsa fra asmatici con i rimorchiatori che scivolano accanto, oltre il parapetto, così vicini che potresti toccarli con una mano. Ci sono vecchie cabine telefoniche ancora di legno, a volte dentro c'è qualcuno, una vecchia con l'aria di un perduto benessere, un ferroviere, un marinaio, e io penso, con chi parlerà? Poi il tram circonda la piazza del Museo della Marina, è una piazzetta con tre palme centenarie e delle panchine di pietra. A volte bambini poveri fanno giochi da bambini poveri, come nella mia infanzia, saltando con una corda o su un disegno tracciato col gesso per terra. Io scendo e mi metto a camminare con le mani in tasca. Il cuore mi batte, non so perché. Forse è l'effetto di una musica disadorna che viene da quel caffè. Deve essere un vecchio grammofono. È sempre un valzer in fa o un fado su fisarmonica. Penso, sono qui e nessuno mi conosce. Sono un volto anonimo in questa moltitudine di volti anonimi. Sono qui come potrei essere altrove, la stessa cosa. E questo mi dà un grande struggimento e un senso di libertà bella e superflua, come un amore rifiutato. E poi penso anche, nessuno lo sa, nessuno sospetta niente. Nessuno potrebbe incolparmi. Sono qui, sono libero, posso persino immaginare che non sia successo niente, se lo voglio. Mi guardo in una vetrina. Ho forse un volto colpevole? Mi aggiusto il nodo della cravatta, mi riavvio i capelli. Ho un buon aspetto, forse leggermente stanco, forse leggermente triste. Ma per gli altri una persona che ha avuto la sua vita, ma niente di speciale, una vita come le altre, con alcune cose buone e alcune cose cattive. E tutto ciò lascia qualche segno, come sul volto di tutti. Ma per il resto non si vede niente. E anche questo mi dà il senso di una libertà bella e superflua, come quando hai pensato a lungo di fare una certa cosa e finalmente ci sei riuscito. E ora? Che fare? Niente. Non fare niente. Siediti in quel caffè, al tavolino, allunga le gambe. Mi porti una spremuta d'arancia e delle mandorle, grazie. Apri il giornale, l'hai comprato per pura apatia. Le notizie non ti interessano. Lo Sporting ha pareggiato con il Real Madrid nella Coppa dei Campioni, il prezzo dei crostacei aumenterà, la crisi di governo sembra scongiurata. Il sindaco ha firmato un piano urbanistico che prevede la zona pedonale nel centro storico. Si metteranno dei vasi di fiori tra la via tale e la via tal'altra. E questa parte della città diventerà un'oasi per la passeggiata e lo shopping. Nel nord del paese un autobus urbano è entrato in un negozio d'angolo perché l'autista ha avuto un malore ed è morto sul colpo. Non per l'urto, per un infarto. Non si registrano altre vittime, solo danni ingenti al negozio che è andato completamente distrutto. Era un negozio di bomboniere e altri articoli per matrimoni e comunioni. Scorri distrattamente gli annunci economici senza particolare interesse perché l'istituto linguistico paga bene. E poi c'è il vantaggio dell'orario. Solo 5 ore al giorno a 2 passi da casa. E tutto il resto del tempo è tuo. Puoi passeggiare, puoi leggere, puoi scrivere, che ti è sempre piaciuto. Oppure il cinema, i film degli anni 50, la tua passione. Potresti anche dare lezioni private. Alcuni colleghi lo fanno. C'è solo la seccatura di sopportare svogliati ragazzini di buona famiglia. Però compensa. Ad ogni modo vediamo, non si sa mai. A volte. Impresa ramo alimentare cerca rappresentante Mattum conoscenza francese e inglese. Zona centro, risposta casella postale 199. Casa farmaceutica svizzera apre succursale in città. Perfetta conoscenza tedesco, preferisce laureati in chimica. Impresa navigazione, linea Bangkok, Hong Kong e Macao, sorveglianza in consegna merci, disponibilità, spostamenti frequenti. Il cinema, perché no? Domani è il tuo giorno libero, puoi permetterti di far tardi, anche lo spettacolo di mezzanotte. Prima uno spuntino alla Foce, al porto di Santa Maria, solo gamberi in agrodolce e riso cantonese. C'è un festival John Ford, una delizia, puoi rivedere The Horse Soldiers, un po' noioso, Rio Grande, Yellow Ribbon. L'alternativa è la retrospettiva francese, scene lentissime e intellettuali con la sciarpa, e poi le complicazioni della Dura scartato. Da qualche parte danno Casa Blanca, cinema alfa, mai sentito nominare. Deve essere in capo al mondo, strada sconosciuta. Però cosa avrà fatto Ingrid Bergman quando arriva a Lisbona e sullo schermo appare The Hand? Bisognerebbe continuare la storia, ha scritto il giornalista. Lo conosco, è un uomo della mia età, baffi neri e occhi svegli. Scrive anche ottimi racconti. Però sei stanco, forse. Deve essere l'atmosfera che si è caricata di umidità. A volte l'Atlantico fa così. Porta una nebbiolina densa che ti penetra nei pori e te li ottura, facendoti sentire le gambe come due pezzi di legno. Mi porti un'altra spremuta di arancia e qualche altra mandorla. Alle gallerie Capitol lanciano una riedizione di Duke Jordan, una registrazione del 64, te la ricordi perfettamente, Sultry Haven e Kiss of Spain, Parigi, 1964, Panini e un freddo cane. Lei era là da venire nelle nebbie del futuro. E ora gli annunci personali, sono i più interessanti, l'umanità si denuda nascondendosi pietosamente dietro eufemismi. Ah, il velo delle parole, che pena. Vedova seria, cerca amicizia duratura. Tre annunci speciali con sigle indecifrabili, in maiuscola. Un pensionato che si strugge di solitudine, la solita agenzia per incontri riusciti. Perché non vi siete ancora rivolti a noi per trovare la vostra anima gemella? E poi, all'improvviso, il cuore comincia a batterti a precipizio. Tum, tum, tum. Te lo senti in gola, ti sembra che possano sentirlo persino gli avventori degli altri tavoli. Il mondo perde i contorni, tutto entra in un'opacità sorda, si spengono tutto, luci, rumori, brusio. È come se un silenzio innaturale e immenso avesse paralizzato l'universo. Guardi meglio la frase, la rileggi, senti uno strano sapore in bocca. Non è possibile, pensi, è un'orribile coincidenza. E poi valuti la parola orribile e pensi, è solo una coincidenza, è solo un caso. Un piccolo caso tra i miliardi di casi che ci sono a questo mondo, una cosa che sta succedendo. Ma perché sta succedendo a te? Questo ti chiedi. E perché lì, a quel tavolo, in quel luogo, su quel giornale? Non è possibile, pensi. È una frase dislocata, un piombo non fuso rimasto in tipografia, sepolto sotto altre tavolette di piombo, che un tipografo distratto ha tirato fuori per errore e ha stampato fra gli annunci. Arrivi a pensare a questa ipotesi e anche ad altre ipotesi più assurde. Mi hanno dato un giornale vecchio, pensi. Per errore ho comprato un giornale di 4 anni fa. L'omino del chiosco aveva il giornale sotto il banco, stava lì dimenticato da 4 anni. Si è accorto che sono una persona distratta e ha pensato di vendermi un vecchio giornale. È una piccola truffa stupida, non perdere la calma. Quell'impaccio leggermente imbarazzante di riordinare il giornale per verificare la data in prima pagina lo attribuisci alla brezza marina che scompiglia i fogli e ne impedisce la giusta piegatura. Tu non sei nervoso, tu sei calmo, sei perfettamente calmo, stai calmo. È il giornale di oggi, di quest'oggi che stai vivendo, di quest'anno del calendario gregoriano. È il giornale di oggi che tu oggi stai leggendo. Anywhere out of the world. Rileggi la frase per la 10ª volta. Questo non è un normale annuncio, è una frase clandestina pubblicata a pagamento su un giornale della sera. Non indica caselle postali, indirizzi, nomi, imprese, scuole, niente. Solo questo. Anywhere out of the world. Ma tu non hai bisogno di sapere altro, perché la frase si trascina dietro come un fiume in piena trascina i detriti, rottami di parole che la tua memoria va ordinando chiaramente con una calma che ti gela. Questa vita è un ospedale dove ogni paziente è posseduto dal desiderio di cambiare letto. Uno vorrebbe soffrire davanti alla stufa e un altro crede che guarirà vicino alla finestra. La sua spremuta, signore. Le mandorle sono finite, mi dispiace. Desidera forse dei pinoli? Fai un gesto con la mano che vuol dire tanto sì quanto no. Basta che non ti si interrompa. Perché ora guardi la costa. Le luci si sono di nuovo accese per i tuoi occhi e il tuo ricordo. Le parole ritornano, anch'esse si accendono nella tua mente. Ti sembra quasi di vederle brillare. Sono piccoli fari nella notte. Segnano la lontananza eppure potresti afferrarle. Entrano nello spazio di una mano. Credo che sarei comunque bene là dove io non sono. E di questo problema di delocalizzazione ne parlo incessantemente con la mia anima. Hai preso il bicchiere fra le mani e bevi a piccoli sorsi. Sembri un avventore tranquillo, un po' sognatore, che guarda l'acqua e la notte come altri avventori ad altri tavoli. Hai piegato il giornale e lo hai disposto sul tavolino con cura, con quell'attenzione esagerata e meticolosa che hanno a volte certi pensionati, che forse hanno chiesto il giornale imprestato al barbiere e devono restituirglielo. Lo guardi con indifferenza distratta, è solo un giornale, il giornale di oggi. Reca notizie già vecchie, perché la giornata è finita e c'è qualcuno da qualche parte che sta facendo già altri giornali, con notizie che spodesteranno fra qualche ora queste notizie coagulate in parole. Ma per te reca una notizia troppo vecchia e nuovissima, di una novità che ti inquieta, che se appena lo volessi ti sconvolgerebbe. Ma tu non ti lasci sconvolgere, non devi lasciarti sconvolgere, stai calmo. E solo allora noti la data, 22 settembre. Pensi ancora, è una coincidenza. Ma una coincidenza con che cosa? È una coincidenza impossibile, perché è una seconda coincidenza. La frase e la data, stessa frase e stessa data. È inarrestabile, come se possedesse una voce propria dentro la tua memoria, quasi come una appiccicosa cantilena infantile della quale credevi di esserti sbarazzato solo perché era stata inghiottita dal passato, ma che non è scomparsa, si trova solo in un anfratto profondissimo dentro di te. La misura di quelle pagine si risveglia. Ecco che arriva il suo fraseggio. Comincia a gocciolare, tic, tic, tic. Che urge contro una parete di roccia, romba, cerca un'apertura e poi comincia a sgorgare come una sorgente, irrompe e ti inzuppa. È un liquido tiepido che però ti farà brividire, un getto travolgente che ti trasporta con sé nei suoi gorghi. Non vale la pena resistere, è forte, vorticoso, inarrestabile, risale tunnel sotterranei, corre con violenza, ti conduce. Dimmi, anima mia, povera anima infreddolita, cosa ne penseresti di vivere a Lisbona? Dovrebbe far caldo lì e ti riscalderesti come una lucertola. Questa città si trova a fior d'acqua. Dicono che è tutta in marmo. È un paesaggio di tuo gusto, un paesaggio fatto di luce e di minerali e di acqua per farli riflettere. E allora ti incammini per questa città costruita in marmo. Passeggi lentamente lungo gli edifici settecenteschi. Sono arcate che videro i commerci coloniali, velieri, trambusto e albe nebbiose di partenza. I tuoi passi risuonano solitari. C'è un vecchio clochard appoggiato a una colonna. Oltre gli archi si apre la piazza che termina nel fiume. L'acqua limacciosa la lambisce. Dal pontile si staccano i battelli illuminati che fanno servizio per l'altra sponda. Tra poco la fretta degli ultimi passeggeri sarà inghiottita dall'ora serale e resterà solo la notte silenziosa, con vaghi passanti attardati, nottamboli distratte, anime inquiete che portano a passeggio i loro corpi insonni conversando con se stessi. Anche tu parli con te stesso, prima dentro di te in silenzio e poi chiaramente articolando le parole in modo netto, come se tu le dettassi, come se l'acqua del fiume potesse registrarle e tenerle lì in un archivio acquatico, affinché i fondali le conservino gelosamente fra i ciottoli, la sabbia e i detriti. E dici: la colpa è una parola che non hai mai pronunciato, forse perché non ne avevi il coraggio. Eppure è una parola semplice, univoca, risuona chiara nel buio e sembra entrare tutta in quel breve alone di fiato che si condensa un attimo nell'aria umida e poi svanisce. Entri nella piazza deserta. Il monumento è impressionante. Il cavaliere alto sprona il suo cavallo contro la notte. La colpa. Ti siedi sullo zoccolo del monumento, accendi una sigaretta. In tasca hai il giornale piegato. Il solo sentirlo ti dà un malessere sottile, come uno spillo dietro la nuca. Un insetto. Non è possibile. Nessuno sa che sono qui. Mi sono perso fra milioni di volti del mondo. Non può essere un messaggio per me, è solo una frase che tanta gente conosce, un altro lettore di Baudelaire che comunica in questo modo segreto un segreto a qualcun altro. E per un momento insegui questa strana idea di una ripetizione, di un doppione della vita, come se fosse plausibile che la ruota del destino possedesse degli stereotipi e li andasse imprimendo a caso nel mondo, nell'esistenza di altre persone, con occhi differenti e mani differenti e differenti modi di essere persone, in strade differenti, in camere differenti. Un altro uomo che ora sta dicendo a un'altra donna in un'altra camera: une chambre qui ressemble en rêverie. E così la tua fantasticheria crea la finestra illuminata di una camera che sembra una fantasticheria. Ti puoi avvicinare ai vetri appannati e spiare attraverso le vecchie tendine di pizzo. È una camera con mobili antichi e una carta di tulipani sbiaditi sulle pareti. Ci sono un uomo e una donna sul letto. Si sono amati, è evidente dalle posizioni dei loro corpi e dalle lenzuola scomposte. E lui le accarezza i capelli e le dice: «Laissez-moi respirer longtemps l'odeur de tes chevaux». In quel momento una pendola suona. «È tardi», dice lei, «devo andare». Ma tu le dici: «I cinesi vedono l'ora nell'occhio dei gatti». Non è ancora l'ora, Isabelle. Tutto deve ancora succedere. Io devo ancora trascinarti al vero tradimento, ma non sarà colpa mia, credimi. È colpa delle cose che vogliono così. Chissà cosa guida le cose. E tu devi ancora lasciarti trascinare al tradimento. Ma anche questa non sarà colpa tua. E poi, a modo mio, dovrò farti morire. Sarà quasi come se ti avessi uccisa io. Ma anche questa non sarà colpa mia. Sarà il tuo rimorso. E intanto lui non saprà mai niente del mio tradimento. Basterà un giorno un annuncio su un giornale, una piccola frase segreta che solo noi due conosciamo. Anywhere out of the world. Sarà il segnale e succederà tutto. Ma invece tutto è già successo. Solo che l'uomo che sta in quella camera non lo sa e dice: è vero, è tardi, vai pure, poi uscirò io. Esci e sei di nuovo nella piazza. Una passeggiatrice ferma l'automobile e ti lancia un piccolo segno con i fari. Fai cenno di no con la testa e pensi ancora: non è possibile, è solo una coincidenza del destino. Ma qualcosa ti dice che non lo è. Il freddo ti è entrato nelle ossa e il gelo che senti dentro è una specie di certezza. L'orologio della cattedrale batte la stessa ora di una pendola di 4 anni fa. È una storia che si ripete, pensi di nuovo. Forse potrei mangiare qualcosa, ho solo freddo e fame. Passa un tram, ma non hai voglia di salirci. Preferisci andare a piedi, su, per quella strada ripida che dal fiume porta al castello. Ci sono turisti stranieri che circolano ridendo, qualche autobus del Sitirama, un ristorantino indiano dove vai spesso a mangiare balsao di pollo. Il proprietario è un goese che chiacchiera all'infinito, forse beve un po' troppo. Fa una salsa buonissima da spargere sul riso e a volte ha vino speziato. Ci sono 2 coppie di americani che mangiano allegri vicino alla finestra. Sui tavoli pendono lampade in paralumi di stoffa a quadri bianchi e rossi e diffondono un'atmosfera bonaria e insieme intima. Il pavimento è un po' sporco, con qualche tovagliolo di carta sotto i tavoli che non è stato raccolto. Il signor Colva stasera è meno ciarliero del solito, all'aria stanca. Forse deve aver avuto troppi clienti. Forse il balsao è un po' troppo piccante, ti dice. Le porterò della birra gelata. È sempre premuroso, ma senza servilismo. Poi fa l'aria di chi si è ricordato all'improvviso di qualcosa e si dà un colpetto in fronte. È un modo di chiedere scusa e insieme di manifestarti la sua sbadataggine. Va al banco con piccoli passi e ritorna sorridendo. «Il suo giornale», dice tendendoti il giornale. Lo senti che sei impallidito e insieme stai sudando. È un sudore freddo, ti tocchi la giacca con la mano, il tuo giornale è in tasca, piegato in quattro, ce l'hai messo prima, crea un piccolo volume contro il fianco. Guardi il giornale che il signor Colva ti tende ma non lo prendi. Lui sul tuo volto legge solo sorpresa, probabilmente, non il terrore che ora senti in forma di una fila di formiche che dalle caviglie ti salgono verso l'inguine. Lo hanno certo portato per lei, ti dice. Solo lei legge questo giornale nel mio ristorante. Ah, sì, riesci a rispondere con una calma che ti spaventa. Chi? Non saprei, dottore. Mio figlio lo ha trovato stamani sotto la porta. Era avvolto in una fascetta, naturalmente, ma quel maleducato l'ha aperto per vedere i risultati di calcio. Lo sa che lo Sporting ha pareggiato col Real Madrid? Concordi che effettivamente è stato un buon risultato. Peccato che la televisione non abbia trasmesso la partita. Dicono che addirittura lo Sporting meritava di vincere se non fosse stata colpa di quella traversa e dell'arbitraggio. Ma è chiaro, l'arbitraggio in questi casi è fondamentale. Anche se il Real ha un campo impeccabile, tifosi che sembrano gentiluomini. Ma è proprio sicuro che ci fosse il tuo nome sulla fascetta? Si guarda intorno smarrito. Lo devi scusare. Ah, questa gioventù screanzata. Ai suoi tempi non era così, era la frusta. Assume un'aria grave, infila il retrobottega col suo passetto svelto. Prima della cucina c'è una scala che porta alla sua abitazione. Ma tanto tu lo sai già che su quella fascetta non c'era scritto nessun nome. Non avrai nessuna conferma, per il semplice motivo che una cosa come questa non può avere nessuna conferma, perché non ha spiegazione. Questa è la verità. E allora cominci a pensare cosa significhi davvero esigere una spiegazione in una cosa come quella che sta succedendo. O una spiegazione a tutto quello che è successo, tutto, ma proprio tutto. Andiamo davvero alle spiegazioni. Lei, lui, tu e quella girandola di sotterfugi e di rimandi e di imbrogli che fu quella storia. E allora cominci a distribuire le responsabilità morali, che è la cosa peggiore, perché questo non porta a niente. Lo sai bene da tempo. La vita non si misura con un metro etico. Accade. Ma lui non se lo meritava. Certo. E anche lei sapeva che lui non se lo meritava. Anche questo è certo. E tu sapevi che lei sapeva che lui non se lo meritava. Ma non te ne importò. Sì, ma perché mai tu non dovevi meritarti di stare con lei? L'avevi conosciuta dopo, molto dopo tutto. Anche questo è vero. Quando i giochi ormai erano fatti. Ma quali giochi? La vita non ha scadenze, non possiede un croupier che alza la mano e sentenzia che i giochi sono fatti. Tutto scorre e niente sta fermo. Perché evitarsi se ci siamo trovati, se il vero gioco ha voluto così? Gli stessi gusti, case bianche con palme esigue o una vegetazione rada ed essenziale, agavi, tamerici, una roccia, le stesse passioni, Chopin o musiche povere, vecchie rumbe, tengo il corazon maluco, la stessa anima, lo splendide Paris. Via da qui, da questo splen. Cerchiamo una città bianca fatta di marmo, a fior d'acqua. Cerchiamola insieme, una città così o un'altra analoga. Non importa dove, da qualche parte, fuori dal mondo. Non posso. Puoi, basta volerlo. Ti prego, non mi costringere. Ti manderò un messaggio. Io parto, sono già partito. Non ce la faccio più. Se vuoi mi raggiungerai. Compra questo giornale, sarà il segnale. Ti dirà dove trovarmi. Lascia tutto, non lo saprà nessuno. Non può saperlo nessuno. Così pensi, mentre il signor Colva ti fa un gesto di rammarico dalla porta del retrobottega. Non ha importanza, signor Colva, lo sapevate solo tu e lei e la buonanima di Baudelaire. Anche con lui hai giocato, e non si può giocare con certe cose. Non si può stuzzicare il mistero che le dettò. Però nessun altro sapeva, di questo sei certo. Non lui, senz'altro, e anche se avesse saputo, ormai. Perché tutto è ormai. È questo che ti fa tremare le mani mentre paghi il conto. La cosa non ha senso, ma un senso ce l'ha. Anche questo lo sai, meglio, lo senti e vuoi provarlo. Vai al telefono vicino al lavabo, introduci una moneta, componi quel numero morto. Anche questo è un numero ormai. La compagnia telefonica non l'ha più attribuito, non corrisponde a niente. Sono cifre che lanciano un segnale acustico verso nessuno. Lo sai fin troppo bene da 4 anni. Componi il numero lentamente. Senti squillare una volta, 2 volte, 3 volte. Poi Il ricevitore fa cre, ma nessuna voce risponde. Senti solo una presenza, non è neppure un respiro, perché non respira. Dall'altra parte del filo c'è una presenza che sta lì ad ascoltare la presenza del tuo silenzio. E allora riattacchi, esci per strada. A tornare a casa non ci pensi neppure, sai benissimo che il telefono squillerebbe. Tu lo lasceresti squillare una volta, due volte, tre volte. Poi prenderesti il ricevitore e lo porteresti all'orecchio. E dall'altra parte niente, solo la densità distinguibile di una presenza che in silenzio ascolta il silenzio della tua presenza. Arrivi di nuovo al fiume. Ora gli imbarcaderi sono deserti. I battelli hanno cessato il servizio, non c'è più nessuno. Ti siedi sulla spalletta del lungo fiume. L'acqua è limacciosa e inquieta. Forse c'è l'alta marea e il fiume sfocia con difficoltà. Sai che è tardi, ma non nel senso dell'orologio. Intorno a te l'ora è vasta, solenne, grande come lo spazio. Un'ora immobile che non è segnata sul quadrante e tuttavia leggera come un sospiro, rapida come un colpo d'occhio. Anywhere Out of the World di Antonio Tabucchi, lettura di Ermanno Nastri. Spettacoli, eventi culturali e segnalazioni della settimana. Con Leonardo Varriale, direttore artistico dell'associazione Melting Pot, per presentare la rassegna Circo Ideale. A Roma, a Villa De Santis, 8 fine settimana dal 26 aprile all'11 maggio 2025. Ben trovato. Ciao, buon pomeriggio. Partiamo da Melting Pot, cos'è? Melting Pot è una giovanissima produzione di circo contemporaneo, una delle poche di Roma e del centro Italia, e da 3 anni produce spettacoli di circo contemporaneo e produce eventi e rassegne all'interno delle quali programma i suoi spettacoli e spettacoli ospiti che vengono da tutta Europa e da tutta Italia. Questa rassegna ce la presenti? Quest'anno sarà molto variegata, ci sono diversi ospiti che arrivano da diversi posti d'Italia e tanti spettacoli di artisti locali, clown, mimi, prestigiatori, giocolieri e 2 spettacoli un po' più particolari in cui la giocoleria incontra la musica elettronica in uno, che è lo spettacolo d'apertura, Rex, della compagnia Kilowatt, e un altro spettacolo ospite in cui questo trio di equilibriste manipolano delle strutture in ferro giganti per poi utilizzarle come supporto per i loro virtuosismi, per i loro numeri. Com'è stata la scelta artistica? Mi sono basato molto sull'incastrare gli ospiti che volevo invitare e poi ho costruito intorno alla loro presenza il resto del programma con gli artisti locali, che comunque è sempre difficile far coincidere le disponibilità delle compagnie che girano con i loro spettacoli poi con le date effettive dei nostri eventi. Quindi una volta ho avuto la conferma che Six Memus e Kilowatt Electric Company erano disponibili per questo periodo, poi ho incominciato a disegnare il resto del programma. E l'interesse era quello che c'è sempre per questi eventi, ovvero che siano degli spettacoli che possano parlare a più livelli, sia ai bambini che agli adulti, in maniera tale da poter fare un'offerta veramente per le famiglie, che sia inclusiva, che non sia un momento in cui le famiglie parcheggiano i bambini al circo, perché il circo è una cosa da bambini, ma anzi tutt'altro, è un'occasione per stare insieme, per vedere uno stesso spettacolo da 2 punti di vista differenti e poi trovare anche magari l'occasione per confrontarsi su questo. Come sarà organizzato ogni fine settimana? Ogni fine settimana ci sarà venerdì, sabato e domenica uno spettacolo al giorno, a parte il 4 maggio che ci saranno 2 spettacoli e l'11 maggio che ci saranno 2 spettacoli, uno spettacolo di un'oretta. I riferimenti web per tutti i dettagli del programma? Sui social di Melting Pot, quindi su Instagram e su Facebook Melting Pot Roma. Come si sta trasformando il circo in questi anni? in tante direzioni differenti. Innanzitutto anche in Italia, che rispetto al resto d'Europa è arrivata con un po' di ritardo, anche il circo sta diventando un linguaggio artistico in cui trova spazio la ricerca, la sperimentazione, la contaminazione con gli altri linguaggi, e sta un po' abbandonando l'esclusività di essere un linguaggio di intrattenimento, ma si comincia a prestare anche a raccontare e a parlare di temi più profondi e più complessi, che non siano semplicemente il fatto di far passare qualche buon quarto d'ora al pubblico, che rimane comunque una cosa importante e dignitosissima, ma che cominciava a stare un po' stretta al mondo del circo. E legato a questo il discorso che facevo prima, il fatto che possiamo immaginarcelo come una proposta che va bene non solo per i bambini, ma in base agli eventi, agli spettacoli, alle compagnie che si esibiscono, può essere un qualcosa di interessante per chiunque. Come mai questo titolo? Circo Ideale è stato l'ultimo tassello nato nella grande famiglia della Città Ideale, che era il precedente contenitore all'interno del quale Melting Pot programmava le sue attività, quindi è venuto naturale associarci la parola circo, il circo che ci piacerebbe poter avere tutti i giorni e che ci regaliamo in questo momento dell'anno. La rassegna Circo Ideale a Roma, Villa De Sanctis, 8 fine settimana dal 26 aprile all'11 maggio 2025. Un saluto e un ringraziamento al direttore artistico dell'associazione Melting Pot, Leonardo Variale. Alla prossima! Ciao! Con Alessandra Roma dell'Associazione Nazionale per la Sicurezza sul Lavoro Ruggero Toffolutti per presentare la mostra fotografica Non Numeri ma Persone, parole e immagini di persone che hanno perso la vita sul lavoro nel municipio Roma 3 dal 15 al 25 aprile 2025. Ben trovata! Ciao, ben trovato a te, grazie per l'ospitalità. Ci sarà l'inaugurazione di questa mostra dell'Associazione Nazionale Ruggero Toffolutti. L'inaugurazione sarà alle 17.30, preciso che i giorni diciamo festivi poi il municipio sarà chiuso. Faccio una piccola premessa: questa associazione prende il nome da Ruggero Toffolutti, un operaio della Magona di Piombino che morì nel 1998, stritolato da un macchinario, e da allora i genitori Roberto Toffolutti, voglio ricordare che ci ha lasciato lo scorso dicembre, e la madre Valeria Toffolutti, da allora ininterrottamente, assieme a altre poi persone che si sono aggiunte nella battaglia per la sicurezza sul lavoro, si adoperano in tutta Italia. E la mostra è una di queste mezzi per divulgare proprio la cultura non solo della sicurezza sul lavoro, ma per denunciare proprio la situazione disastrosa che ci troviamo a vivere, perché come sapete ogni giorno muoiono almeno 3 o 4 lavoratori e lavoratrici sul lavoro, ed è una situazione intollerabile di fronte alla quale dovremmo essere uniti o batterci. E questa mostra è uno strumento, dicevo, perché sono 48 foto di lavoratori e lavoratrici che hanno perso la vita sul posto di lavoro. Questa mostra è stata ideata nel 2009 da la stessa Valeria Toffolutti e Yuri Leoncini, e l'obiettivo è quello di dare un volto e una voce a tutti coloro che hanno perso la vita lavorando, e tra questi ci sta un ragazzo che è conosciuto molto nella storia dei centri sociali, in particolar modo dell'Acrobax, che è Antonio Salerno Piccinino. Antonio è morto nel gennaio del 2006 ed era lavoratore precario, era al nero anzi, che portava delle provette di urine degli animali, e è morto sulla Cristoforo Colombo, ucciso da un pirata della strada, e non avendo poi il contratto eccetera, quindi essendo al nero, la sua morte è figurata poi come un incidente stradale. Poi ci sono anche gli operai della ThyssenKrupp. Nel 2006 morirono 7 operai della ThyssenKrupp in un incendio. Poi ci sono anche operai dell'Ilva. C'è una giovane ingegnera, Lisa Picozzi, che è morta mentre faceva un'ispezione in un cantiere. Quindi questa mostra vuole non solo far conoscere, dare un volto ai numeri, insomma, perché poi si parla di statistiche quando succedono, diciamo, delle tragedie, magari i giornali ne parlano qualche giorno e basta, ma invece è una situazione più che preoccupante di cui bisogna parlare. E una cosa che mi preme dire è che si muore di lavoro perché si vive di precariato, quindi finché non cambierà ovviamente la situazione più che preoccupante nel mondo del lavoro, finché ci sarà il lavoro nero, finché soprattutto non ci saranno i controlli, ricordiamo che gli ispettori del lavoro sono in numero esiguo, così come i tecnici della prevenzione, quindi comunque non esiste proprio neanche la cultura della sicurezza, non viene fatta la formazione e di conseguenza si muore di lavoro. Quindi questa mostra è proprio per denunciare, tenere alta l'attenzione e per ricordare soprattutto chi come Antonio, lo stesso Ruggero e tutti gli altri e le altre non ci sono più, e tutti dobbiamo comunque avere una tutela e tutti dobbiamo ricordare e tenere presente questa questione. Quindi è importante che si diffondano questi strumenti, quindi dai libri, come per esempio a Piombino ci sarà lo scrittore Alberto Brunetti che interverrà in una scuola proprio di Piombino, il suo libro Amianto, che ricorda insomma il padre che era un operaio che è morto anche da amianto. Quindi ricordiamo che quando parliamo poi di morti sul lavoro si parla anche di malattie professionali, si parla di tutta una serie di dinamiche, di situazioni che vanno poi conosciute, vanno denunciate, in modo che poi non possano più accadere. Che percorso sta facendo questa mostra? Questa è la 107ª volta che viene esposta. È una mostra itinerante. L'ultima volta è stata a Firenze, nel Palazzo della Provincia, poi andrà nella provincia di Lucca. In precedenza è stata pure a Viterbo presso la sede dei Cobas, quindi è importante che poi giri tutta l'Italia. Pensiamo alla stessa Piombino, pensiamo a Taranto, all'Ilva ovviamente di Taranto. Nel 2009 la portammo anche a Roma, proprio all'Acrobax, la portammo all'ex cinema Volturno che non c'è più e anche alla libreria Rinascita. Ci sono dei riferimenti internet per saperne di più? Sul sito della Ruggero Tuffolutti, poi ricordo che anche lo stesso Municipio Terzo sta divulgando l'evento, che poi all'interno di una serie di iniziative che il Terzo Municipio farà in vista del 25 aprile, perché come scriveva Luca Blasi, non c'è liberazione se non si smette di morire sul lavoro. La mostra fotografica Non numeri ma persone, parole e immagini di persone che hanno perso la vita sul lavoro, al Municipio Roma 3, dal 15 al 25 aprile 2025. Un saluto e un ringraziamento ad Alessandra Roma dell'Associazione Nazionale per la Sicurezza sul Lavoro, Ruggero Tuffolutti. Alla prossima! Grazie! Con Simone Ferretti, uno dei curatori della 27ª edizione del Festival Resistente a Grosseto dal 24 al 26 aprile 2025, ben trovato. Salve, ben trovati a voi e grazie dello spazio. Cosa prevede quest'anno? 3 giorni, tema del 27ª Festival Resistente, il titolo è Movimento, con una parentesi sulla V e sulla I, perché crediamo che sia importante oggi più che mai una riflessione nell'80° anniversario della liberazione, dare spazio a quello che è stato il percorso storico del movimento della pace, la necessità oggi più che mai di essere presenti rispetto al tema della guerra che imperversa e che vive in questa fase una oggettiva situazione internazionale che vede una crisi nel suo complessivo della politica e dell'azione politica, e allo stesso tempo la necessità di riuscire a ridare spazio a quello che è stato il movimento della pace nel nostro paese e quello che sono oggi più che mai i movimenti che si stanno impegnando per dire stop alla guerra, alle armi in Medio Oriente come nelle altre parti del mondo. Per cui partiamo da questa cosa per iniziare una 3 giorni che seguirà il format oramai consueto dell'inserire momenti di riflessione e quindi di dibattito insieme a spazio per i più piccoli, presentazioni di libri e concerti, insomma un modo un'altra volta per essere all'interno del Festival Resistente come una comunità che ricrea i propri legami, ristruttura il proprio essere spazio all'interno della società, uno spazio appunto resistente. Le scelte artistiche per quanto riguarda musica e letteratura sono a tema, immagino. Sì, assolutamente. Partiamo da chi ha resistito per 40 anni partendo dal suo album Siberia con il diaframma, 40 anni dell'album Siberia, e quindi la prima serata sarà in questo senso rappresentata da loro come spazio principale. Avremo anche la possibilità di avere un DJ set a tema che spazierà sui temi collegati alla musica New Wave, per poi andare nella seconda giornata con un gruppo toscano uscito da poco, si chiama il Collettivo Rivoluzionario Protosonico, insieme anche altri due gruppi che apriranno, Linguastiti, gruppo Mare in Mano, e Androginus, per poi chiudere l'ultima serata con la finale del contesto musicale Staffette Giovani Resistenti, un progetto che abbiamo sviluppato come Festival Resistente, che sta vedendo in questi giorni le sue fasi di date per arrivare alla finale, e poi successivamente Materazzi Future Club con la loro musica post-punk. Per quanto riguarda gli spazi, siamo all'interno delle mura, ci siamo mossi di poco da quello che era il nostro solito spazio che era rappresentato dal Cassero. Questa volta siamo al Bastione Molino a Vento, Grosseto, dove è il cinghialino sulle mura di Grosseto. Insomma, resistiamo anche all'interno di questa città con tutte le sue contraddizioni e costruiamo in questo modo tre giorni che vogliono rappresentare oggi più che mai il grido di chi non ci sta. Ci sarà anche il corteo il 25? Sì, mattina il corteo, quindi la manifestazione in piazza, che rappresenta per noi un segno, insomma, manifestare è importante e essere in piazza oggi più che mai rappresenta anche un segno di chi in qualche modo dice di non starci. Ci sarà spazio anche per i libri? Sì, abbiamo la presentazione di un libro, il 26, abbiamo insieme all'Istituto Storico Grossetano della Resistenza dell'Età Contemporanea la presentazione del libro Andare per i luoghi della Resistenza di Paolo Pezzino, un libro che è uscito da pochi giorni, e avremo la possibilità di ospitare l'autore per discutere appunto il tema dei luoghi della Resistenza. Ci sono luoghi importanti che rappresentano geografie, rappresentano spaccati della dimensione complessiva della storia, da Ventotene a Milano passando per altri spazi, e la Maremma vive questi spazi che sono densi di storia, densi di sentimenti, densi di un'attrazione che rappresenta in questo senso la voglia e la volontà di viverli ancora e non dimenticarci di quei luoghi. I riferimenti web per tutti i dettagli del programma? Abbiamo un sito www.festivalresistente.it, se no ci trovate scrivendo Festival Resistente Arci Grosseto anche sui principali social. 27esima edizione del Festival Resistente a Grosseto dal 24 al 26 aprile 2025. Un saluto e un ringraziamento ad uno dei curatori, Simone Ferretti. A presto! Un grande abbraccio a tutti e a tutti, grazie ancora. Con Raffaele Cataldi, autore del libro Male Sangue, storia di un operaio dell'Ilva. Ben trovato. Buongiorno a tutte e tutti, grazie per l'invito. Ci presenti questo lavoro, cos'è? Dall'uscita da gennaio ad oggi posso dire che è un lavoro necessario, perché mi accorgo che più va in giro il libro e più le persone hanno bisogno di sapere, perché in realtà la storia dell'Ilva di Taranto è stata un po' mistificata dal racconto dei giornali e tanti che hanno scritto su Taranto. Quindi è stato un mezzo necessario per continuare nella resistenza, perché noi viviamo una guerra e di ieri che è stata data la via a 6 milioni di tonnellate, e quindi significa che a Taranto si può continuare a morire. Da Genova già nel 2005 è stato certificato che l'aria a caldo porta morte per i cittadini e gli operai. A Taranto si può morire, perché in sostanza quello si dice, perché si continua a parlare di decarbonizzazione e quindi non si può parlare di Taranto, perché Taranto è una fabbrica a ciclo integrale, quindi necessariamente va a carbone, e quindi non si può parlare di nessuna decarbonizzazione, non si può parlare di ambientalizzazione. E il libro non è altro che un racconto fatto dall'interno, da un operaio che ha bisogno di non sentirsi più solo, ha bisogno di far conoscere la verità, perché purtroppo chi decide per la nostra vita ci riempie solo di parole vuote che non hanno significato. E noi continuiamo, se da operaio mi sono ammalato, da operaio ho perso comunque il posto di lavoro, da operaio mi trovo costretto ad assistere alle desertificazioni di questa città, sia dal punto di vista umano, perché i ragazzi vanno via, scappano, che dal punto di vista anche sociale, perché non c'è niente. Perché ci abbiamo l'Ilva? Questo è il concetto. Avete l'Ilva? E io aggiungo, non solo, abbiamo l'Ilvia, l'ENI, la Marina Militare. Ora ci vogliono mettere una nave di rigassificatura e quindi ci stanno mettendo, siamo con tutti e due piedi in una fossa. Noi aspettiamo solo che arrivi il giorno nostro. È come quando entri in fabbrica, entri e non sai se esci. Questo è questo libro. È un grido d'allarme, un grido all'unione di tutti gli operai, di tutto il mondo operaio, della classe operaia sostanzialmente, perché si sente la mancanza di questa classe. Questo è il nostro malesangue. Taranto però ha anche significato la nascita del Comitato dei Lavoratori Liberi e Pensanti. Certo, io faccio parte del Comitato Cittadini Lavoratori Liberi e Pensanti e siamo in giro per dare voce alla lotta di Taranto. Prima del libro è nato l'1 maggio Libero e Pensante, che è un evento autofinanziato, un evento fatto dal basso, un evento che non ha eguali in tutto il meridione. È un evento che noi portiamo avanti perché nel 2012, dopo che c'è stato il sequestro degli impianti, un sequestro che realmente non c'è mai stato, ma sulla carta quegli impianti dovevano essere sequestrati, poi si va avanti per decreto, siamo quasi al 18° decreto che permette di produrre, e quindi un gruppo di operai decide di dire basta. Quindi un gruppo di operai insieme a dei cittadini fa irruzione in uno sciopero organizzato dai confederali per prendersi sostanzialmente la parola, per poter dire la propria da operai, perché nessuno ci ascoltava e ci continuano a non ascoltare. Siamo dovuti irrompere in una piazza, però siamo stati accolti dagli operai che erano in piazza con gli applausi. Non c'è stata nessuna violenza perché sapevano chi eravamo, sapevano qual è il nostro pensiero. Da quel giorno nasce il Comitato Cittadini Liberi e Pensanti. E noi siamo nettamente per la chiusura dello stabilimento, nonostante siamo degli operai dello stabilimento, e siamo quelli che sono riusciti a proporre un piano B per la salvaguardia del lavoro e del lavoratore, perché spesso i confederali e i politici parlano di salvaguardare il lavoro, ma non il lavoratore. Noi siamo per salvaguardare prima di tutto il lavoratore, sia dal punto di vista della salute che dal punto di vista della sicurezza sugli impianti, e dopo il lavoro. Dobbiamo dire che forse non si sa in giro, perché dal 2012, se gli impianti fossero stati fermati, noi non avremmo avuto 9 morti sul posto di lavoro, 9 ragazzi che sono entrati in fabbrica e non sono più usciti, uno dei quali si è dovuto fare un ulteriore decreto per far ripartire gli impianti perché erano sotto sequestro. Noi siamo dei numeri, sia come cittadini che come operai, e non ci rispetta nessuno, siamo lasciati soli alla deriva. Questo è il libro, un grido d'allarme, un'arma per continuare la lotta. Il libro Male Sangue, storia di un operaio dell'Ilva. Un saluto e un ringraziamento a Raffaele Cataldi del Comitato Cittadini e Lavoratori Liberi e Pensanti. Alla prossima! Grazie a tutte e tutti. Alla prossima. Grazie. Questa è tutta scena teatro su Radio Onda Rossa. Il martedì alle ore 14. Trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali. I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.